Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, l'unico format radiofonico che vi propone le voci, i fatti e le opinioni dalla galassia animalista, antispecista e vegan. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Oggi parleremo di cavalli disobbedienti, di favole contro i pregiudizi e le superstizioni e di carrube. Non vi risparmieremo tanta buona musica e una selezione di notizie della settimana. Della settimana per una trasmissione radiofonica come la nostra non può che essere l'esito del Palio di Siena. Il Palio di Siena è una competizione fra le contrade di Siena di origine medievale. La carriera, come viene tradizionalmente chiamata la corsa, si svolge normalmente due volte l'anno. Il 2 luglio si corre il Palio in onore della Madonna di Provenzano e il 16 agosto quello in onore della Madonna Assunta. Finita la guerra nel 1945 venne organizzato il Palio straordinario del 20 agosto, passato alla storia come il Palio della Pace. Peccato che proprio in quell'occasione si verificò la più grande scazzottata del secolo, dovuta al fatto che la contrada favorita, quella del Bruco, non accettò di aver perso il Palio, che fu vinto dal Drago. Se il Palio si corre due volte l'anno, la sua preparazione dura 365 giorni e ogni contrada lavora molto, sia alla luce del sole sia nell'ombra, attorno a questo evento, che è avvolto in un'atmosfera misteriosa e intricata, fatta di odio e rivalità, ma anche di patti segreti. Il tutto in una omertà ferrea che non ammette pentitismi. Nella storia del Palio è accaduto di tutto, fantini mercenari che cambiano casacca all'ultimo momento, cavalli che si ammalano misteriosamente, veterinari defenestrati, blitz nella stalla, discussioni su siringoni e beveroni per sostenere la forma fisica dell'animale, liti furiose. Tutte leggende metropolitane? Forse. Quest'anno però, alla luce del sole per la prima volta, c'è stato un incredibile colpo di scena. Torna Sol, un magnifico mezzo sangue anglo-arabo, la razza predestinata per il Palio, si è rifiutato di correre e ha ritardato di un'ora e mezza la partenza del Palio, lasciando 15.000 persone in piedi sotto il sole ad aspettare l'esito di quel suo recalcitrare e costringendo alla fine il fantino e dunque l'intera contrada al ritiro. Thank you. parliamo di questa straordinaria notizia con Sonny Rikiki, presidente dell'associazione Italian Horse Protection, la più attiva realtà che abbiamo in Italia specializzata in equidi, che da anni analizza e contrasta in modo serio e inappuntabile il mondo dell'ippica e degli sport equestri. A Sonny Rikiki, che conosce molto bene la psicologia equina, abbiamo chiesto come dobbiamo interpretare la ribellione e la disobbedienza di Tornasol. Ha reso palese quello che in realtà subiscono tutti gli altri cavalli, perché io invito sempre tutti a fare una cosa che non si è abituati a fare, soprattutto quando si vedono manifestazioni di questo tipo. Concentrarsi sui cavalli, sulle teste dei cavalli, sulle espressioni dei loro occhi, sulla tensione muscolare che hanno, e vedere che nessuno di questi cavalli entra in quella pista se non è assolutamente forzato in qualche maniera a farlo. Ci sono strattoni continui alle bocche di questi animali, ci sono continui tocchi di nerbo, se parliamo di palio, o di frustini, se parliamo di altre discipline. Sono animali che non sono assolutamente né abituati e né tantomeno a loro agio a essere lì. Quindi l'addestramento, l'allenamento non li abitua a snaturarsi, li abitua a fare delle prestazioni atletiche, che è una cosa completamente diversa. In questo caso avrà giocato probabilmente la presenza del pubblico, quindi la presenza di bandiere, di gente urlante, di petardi e di botti che si sentono durante queste manifestazioni, uno scenario dove i cavalli non dovrebbero esserci. I pali, come manifestazioni storiche, sono delle cose splendide, sono gli animali che lì dentro non c'entrano nulla, sono assolutamente fuori luogo, è un anacronismo ormai inaccettabile, e sono esseri forzati a fare delle cose che tranquillamente sceglierebbero di non fare, anzi di essere da qualche parte. Quel cavallo l'ha scelto con forza, e questo è stato il merito suo, il merito perché ha posto l'attenzione finalmente su cose che normalmente le persone non notano, che fanno tutti i cavalli, come ha fatto lui, quello che si chiama tecnicamente un rifiuto. Lui l'ha fatto in maniera più forte, fino addirittura a indurre la sua esclusione. È stata una cosa sicuramente fantastica. In altri contesti, quando succedono cose di questo tipo e si è lontani dagli occhi del pubblico, ci sono degli interventi violenti fatti da dietro con appunto uso di strumenti coercitivi quali frustini, corde o quant'altro, che non gli danno più scelta, e quindi il cavallo a un certo punto deve per forza andare in avanti. Qui ha giocato a loro sfavore, in questo caso a sfavore dei senesi, il fatto di essere in pubblica piazza e sotto le telecamere del pubblico servizio, quindi questo tipo di cose non l'hanno potuto fare e hanno dovuto abdicare. Il cavallo aveva spazio poi di muoversi anche all'indietro, ed è quello che continuava a fare, prendendo vano ogni tentativo di rimetterlo al punto di partenza. Proprio squisitamente di psicologia equina, è sicuramente un'associazione di idee negativa che induce l'animale a evitare di porsi in una condizione di pericolo, comunque di paura o di rischio. Ricordiamoci che in tutti gli animali questa cosa funziona così, è una forma di autodifesa. In animali che sono delle prede, che si sono evoluti come delle prede, come i cavalli, questa cosa è enormemente amplificata, e questo non ci dobbiamo mai dimenticare. È un cavallo che non ha avuto paura di ostentare il proprio rifiuto. Leggevo nei loro commenti, nei loro articoli, che secondo loro si è trattato di una cosa comprensibile ma del tutto episodica, che comunque per loro è un cavallo tra virgolette buono, che sicuramente continuerà a essere allenato per i prossimi pali. Questo a leggere le dichiarazioni. Poi c'è una postilla non da poco, la Procura di Siena ha aperto un'inchiesta, ha aperto un fascicolo disponendo un prelievo di sangue sul cavallo per verificare la presenza di eventuali sostanze che possano anche loro in qualche maniera aver fatto gioco in questa reazione del cavallo. Per il pubblico, i non addetti ai lavori, cos'è che salta all'occhio leggendo questa cosa? Che deve intervenire una procura perché si facciano delle analisi e antidoping indipendenti e trasparenti. Cosa che normalmente nei pali non avviene. Nei pali non esiste una procedura antidoping calata dall'alto, ma viene affidata ai singoli organizzatori la regolamentazione di questa fattispecie, quindi loro si organizzano i prelievi, loro si organizzano i controlli, e questa è una cosa delle più inaccettabili che noi denunciamo da tempo. Bisogna dimenticare che i cavalli sono tra gli animali più sfruttati al mondo. Prima subiscono un addestramento tremendo che fiacca la loro volontà e cancella la loro identità per venire usati nelle corse. Poi, quando la performance cala, vengono usati nei maneggi. E infine, quando le misere esistenze vengono ritenute al capolinea, spesso accade che i loro documenti vengano falsificati e che anche i cavalli da corsa, che non dovrebbero essere macellabili, finiscano invece macellati dopo un'intera vita di schiavitù. Dedichiamo al disobbediente e ribelle Tornasol la ricetta di questa settimana. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. L'amore a cena e tu dimmi sì se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma tu. Ho un ricordo di quando ero piccino, di un'estate in Puglia in cui mi innamorai delle carrube. Tutti mi dicevano: e son per cavalli, i che tu mangi? Ma io, ribelle, continuavo a mangiarle. Così oggi voglio mangiare il ribelle Tornasol con una torta proprio a base di carrube. Gli ingredienti per una tortiera da 24 cm di diametro per la torta di carrube e pistacchi sono 250 ml di acqua, 25 ml di olio di semi di girasole, 100 g di zucchero di canna, 200 g di farina, 50 g di farina di carrube, un pizzico di cannella, un pizzico di sale, una bustina di lievito per dolci, un pizzico di bicarbonato, un cucchiaino di aceto di mele, un cucchiaio di marmellata di albicocche e un cucchiaio di granella di pistacchi. Tu non sarai mica tu una saponetta che scivolando non c'è e mica è d'amora. Tu hai bisogno di me che ti ossigeno di più. Dimmi che non sei tu un miraggio ma sei tu. In una ciotola unite l'acqua, l'olio, lo zucchero e il pizzico di sale. A parte, in un altro recipiente, setacciate le due farine assieme al lievito e alla cannella. In una sola volta unite la parte solida a quella liquida mescolando con una frusta. Lavorate fino ad ottenere un impasto liscio e cremoso. Scaldate il forno e portatelo a 180 gradi, quindi aggiungete il bicarbonato e l'aceto di mele e mescolate un'ultima volta. Versate il tutto in uno stampo di 24 cm di diametro, precedentemente spennellato di olio e spolverato con un velo di farina. Fate cuocere in forno statico a 180 gradi per circa 30 minuti, quindi fate raffreddare e riposare per un'ora. Sciogliete la marmellata di albicocche in un pentolino e usatela per spennellare la superficie della torta. Quindi decorate con la granella di pistacchi e servite. Di 70 veterinari, in prevalenza olandesi, riuniti sotto l'etichetta dei Caring Vets, hanno firmato una lettera in cui chiedono la fine dei maltrattamenti degli animali negli allevamenti intensivi e nei macelli. Il modello predominante di produzione di prodotti di origine animale in grandi quantità e a basso costo, scrivono i 70 veterinari, non ha cagionato solo gravi problemi ambientali, ma costituisce una minaccia per il benessere animale. Nella lettera vengono citate alcune pratiche come la debeccazione delle galline, l'isolamento delle scrofe, la separazione dei vitelli dal latte e dalle madri, l'asportazione delle corna, vitelli e agnelli, l'utilizzo di anidride carbonica per stordire i maiali. Si parla poi dei trasporti, di quei viaggi della morte, spesso molto lunghi e vissuti in condizioni di enorme stress e sofferenza, che gli animali sono costretti a compiere per raggiungere i macelli dove vengono poi soppressi. I 70 veterinari nella loro lettera autodenunciano le loro complicità. Spesso dicono: con i nostri certificati, i nostri silenzi, agevoliamo comportamenti inaccettabili. Si tratta evidentemente di una denuncia che mette sotto accusa le procedure più violente, più estreme, tipiche degli allevamenti intensivi, e può quindi essere accolta come una presa di coscienza da parte di questi veterinari della forza soverchiante del sistema di sfruttamento degli animali, una forza che ha travolto anche l'etica veterinaria. La quale tuttavia, aggiungiamo noi, dovrebbe affrontare un'ulteriore questione. Che relazione esiste, ci domandiamo, fra l'etica veterinaria di chi segue e cura animali destinati ai macelli e quella di chi si prende invece cura di animali destinati a completare il loro naturale ciclo di vita? È davvero pensabile un'etica comune? Pamplona, con la sua cruenta festa di San Firmino, è una sorta di capitale delle fiere, degli spettacoli e delle tradizioni che ruotano attorno all'utilizzo di esseri viventi in giochi violenti, spesso letali. Le tradizioni, tuttavia, per loro natura, sono soggette ai cambiamenti legati all'evoluzione della storia e della società, al mutare soprattutto del senso di giustizia. Le tradizioni possono anche cessare di esistere. Non sorprende perciò che la corsa dei tori e la corrida, anche a Pamplona, siano messe in discussione da gruppi sempre più numerosi di persone. Nei giorni scorsi una manifestazione ha occupato il centro della città spagnola per contestare la tauromachia. È stata una manifestazione con balli, canti e l'esibizione di uno striscione raffigurante un toro stilizzato e una scritta «Non lasciarmi solo». E in effetti i tori sono sempre meno soli. Secondo sondaggi recenti, più della metà dei cittadini spagnoli, il 58%, sarebbero pronti a rinunciare alle corride, contro il 19% di affezionati a questo tradizionale, ma sempre più anacronistico, spettacolo di morte. Thank you. You're sleeping night and day. How do you do it? Me, I am wide awake. Feeling defeated. I say your name. I say I'm sorry. I know it's not working. I'm no holiday. It's nobody's fault. No guilty party. We just got nothing. Nothing left to say. Another year gets away. Summer of love. I don't know why I care. We miss it every summer. I say your name. I say I'm sorry. I'm the one doing this. There's no one. The way it's nobody's fault. No guilty party. I just got nothing. Nothing left to say. It all. Abbiamo avviato un ciclo di recensioni letterarie a cura degli editori indipendenti Troglodita Tribe. Oggi vi proponiamo il nostro spazio dedicato alla letteratura, ma stavolta quella per bambini, bambini che amano gli animali, si intende. E infatti a ideare e condurre questa puntata di Speriamo che sia vegan è proprio una bambina, Agata, che assieme alla nostra Roberta Marino ci presenta un'altra storia fuori dagli schemi, Il segreto di Tom Ossobuco. Superstizione, diffidenza, paura del diverso. Sono questi i temi portanti de Il segreto di Tom Ossobuco, il racconto di Fulvia degli Innocenti, che si avvale dell'efficace illustrazione di Roberto Lauccello. Dietro a queste tematiche, però, si nasconde un mistero che spazzerà via i dubbi e aprirà le porte su una nuova realtà fatta di rispetto per ogni essere vivente. Tutto ha inizio al numero 17 di Via dei Cipressi. Da tanti anni ormai uno strano maleficio sembra aver colpito quella stradina del quartiere. Tutti i negozi, dal panettiere al sarto, che hanno aperto lì sono miseramente falliti. Tutti tranne uno, la macelleria di Al Scannabuoi, che continua a fare affari proprio di fronte al 17, facendo bella mostra di quarti di bue e polli appesi come trofei. Un giorno però, davanti allo sfortunatissimo 17, si ferma uno strano furgoncino bianco, con un disegno di salsicce sopra. Come? Un altro temerario che vuole aprire il suo negozio qui? Dal furgoncino spuntano un ometto basso e tondo e una signora alta e maestosa. Riattaccano la targa con il numero 17 e poi iniziano a scaricare casse, sacchi, frigoriferi. Ma una mattina la saracinesca si apre. Sulla vetrina appare un cartello. Tom Ossobuco e signora invitano la gentile clientela domani alle ore 17 all'inaugurazione del paradiso della salsiccia. Salsicce e spiedini gratis per tutti! È un vero successo! Tutti gli abitanti corrono ad assaggiare gli stuzzichini di Tom, che hanno un effetto portentoso. Che bontà! Che gusto squisito! Intanto, dall'altro lato della strada, il negozio di Al Scannabuoi è sempre più deserto. Al è verde di rabbia. quella Nerottolo, quella Befana! Ci penserà la maledizione del 17. Già, la maledizione. Qualcuno inizia a sospettare e a spettegolare. C'è chi comincia a diffidare di quei due personaggi sempre così gentili. Qualcuno fa anche commenti maligni. Sempre soli quei due, mai un amico, mai un parente. Che ci farà tutto il giorno nel retrobottega quella strega? Quegli ossobuco combinano qualcosa di strano. Infatti, e anche quella misteriosa carne che vendono sarà di certo il prodotto di qualche stregoneria. I giorni seguenti al negozio di Tom c'è la solita ressa. Tutti si accalcano per comprare salsicce e macinato, ma gli abitanti di via dei cipressi diventano sempre più sospettosi, finché una notte, guidati da un furibondo alla scannabuoi, fanno irruzione nel retrobottega per chiedere spiegazioni sul misterioso segreto. Ci dovete delle spiegazioni? Perché state sempre rinchiusi qua dentro giorno e notte? Non venite a raccontarla a me, che faccio il macellaio da 30 anni. La carne è sempre carne, ma quella che vendete voi ha qualcosa di molto strano. La porta si apre. Dentro la cella frigorifera ci sono solo farine e fagioli. Ma dov'è la carne? Che cosa nascondeva nel retrobottega, Tom? Qual era il suo segreto? Il segreto di Tom Ossobuco, scritto da Fulvia degli Innocenti, illustrato da Roberto Lauciello, per bambini dagli 8 anni, 32 pagine, edizioni Il Gioco di Leggere, costo 14,90 €. Hanno contribuito alla realizzazione di questa puntata Sonny Ricchichi di Italian Horse Protection, Roberta Marino, Agata, Gabriele Palloni, Lorenzo Guadagnucci, Giuseppe Coco, Francesca De Matteis, Gianni Ferrarotti e Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la trasmissione Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.